vengono utilizzati due vitigni assieme praticamente, quindi Cabernet Sauvignon e Merlot, in quantità che sono sempre diverse anno per anno, perché è diverso proprio il carattere dei due vitigni. Diciamo che il Merlot è quello che dà un carattere più fruttato, più dolce, più maturo, più morbido, un pochettino più femminile, diciamo così. L'elemento mascolino invece viene portato dal Cabernet Sauvignon, che è un pochettino più robusto, un pochettino più sostanzioso. Si deve naturalmente creare l'equilibrio tra questi due elementi, quindi tra questi due, l'elemento, diciamo così, di dolcezza e quello di forza. Questo in funzione anche dell'annata, perché in un'annata particolarmente ricca, quindi io avrò un Cabernet Sauvignon molto muscoloso che avrà bisogno di essere un pochettino addolcito, ammorbidito dal Merlot. In un'annata invece povera avrò bisogno soprattutto della dolcezza, della morbidezza femminile e di poco elemento mascolino, proprio perché l'annata è stata piuttosto dura e quindi già in qualche modo crea questo elemento di durezza. Ecco allora che proprio attraverso la combinazione finale si riesce tutti gli anni ad avere un equilibrio tra questi componenti, quindi l'annata diversa, ma attraverso le percentuali che possono variare tra un vitigno e l'altro, al fine di raggiungere sempre il perfetto equilibrio tra la giusta potenza e la giusta eleganza dei due vitigni. Quindi è proprio quello che viene chiamato il taglio bordolese, cioè un vino tagliato con un altro vitigno, ma sempre in quantità, in percentuali diverse, proprio in funzione dell'annata, che non è mai uguale. Nascono quindi questi vini estremamente ricchi, molto molto fruttati. Sentite questi aromi di frutta, di frutti di bosco, di mora, di ribes, di mirtillo, quindi di frutti con una sensazione molto molto consistente, molto molto intensa, perché sono anche poi arricchiti da una fortissima speziatura, anche piuttosto vigorosa, e poi ben rinfrescati da questo tocco appena appena vegetale, da questa nota appena appena verde che gli dà molta freschezza. Quindi abbiamo questi elementi iniziali di grande forza, di grande dolcezza e di grande potenza, ma tutto poi appena appena alleggerito, diciamo così, rinfrescato da questo tocco vegetale. Al gusto, ecco, sentite benissimo questa sensazione molto dolce, molto matura del frutto, e come poi vi sia subito questo tocco verde appena appena vegetale, questo odore di foglie, questi sapori appunto appena appena linfatici, che tendono a dare una bella freschezza, una bella fragranza al gusto. La tannicità è molto minuta, molto sottile, si proprio adagia bene sulle pareti della bocca, sulla lingua, con una impressione molto molto morbida, molto avvolgente, lasciando ancora in bocca quella doppia sensazione, la parte fruttata, dolce e matura, e la parte fresca, la parte vegetale, che rinfresca continuamente la sensazione. Proprio da questo equilibrio tra questi due elementi nasce appunto l'eleganza di questi vini, proprio di questo perfetto equilibrio tra questi elementi, tra questa tannicità così fitta, così fine, così minuta, appunto da diventare carezzevole sulle pareti della bocca. Ecco. Quindi ecco come questo ambiente così, così particolare, così ricco, così caldo, così assolato e così luminoso riesca a dare poi dei vini così freschi, così fragranti, assolutamente privi di elementi di cottura, di elementi di confettura, ma proprio frutto fragrantissimo, molto molto molto molto fragrante, proprio come se fosse appena raccolto, ma di grande forza, di grande potenza, e tutto appunto rinfrescato e reso solido e consistente dal tannino così minuto e dalla freschissima acidità. Ecco, questo è un grande esempio, anche questo, di terroir, di un terroir naturalmente molto molto diverso dai precedenti che abbiamo sentito, ma anche qui questa nettissima interazione tra l'ambiente, il vitigno e l'uomo che poi ha vinificato questi vini. Io vi chiedo naturalmente un bel applauso per questi vini, perché sono davvero molto molto buoni. E per i loro produttori, che sono stati quindi in grado di capire, di cogliere l'ambiente che avevano attorno, e quindi di assecondare, come dire, in qualche modo le richieste della pianta, le richieste dell'uva che si portavano in cantina. Prima di chiudere, naturalmente, se c'è qualche domanda, se c'è qualche... Altrimenti vi saluto tutto, vi ringrazio molto. E vi do appuntamento all'anno prossimo, naturalmente. Grazie a tutti voi.